convocate le nostre antenate, ci prepariamo. Questa è una lezione tosta, sorelle. Io cercherò di renderla il più facile possibile, ma stiamo parlando di concetti metafisici veramente sottili. E quindi, sento che è necessario perché è l'unica via per uscire dalla dualità, l'unica via per entrare nell'unità. Non è combattere nel mondo materiale, non è scagliarsi noi contro voi, ma è un salto interno di frequenza, un cambio di attitudine, un nuovo suono dell'anima, mi viene da dire, che ci porta semplicemente a non vedere più conflitti, a non vedere più il nemico. Tutto quello che noi vediamo è la percezione che si crea in base alle nostre credenze. Se noi siamo sintonizzate sulla frequenza duale, continueremo a vedere nemici, via questi sotto i prossimi, perché è la nostra percezione che semplicemente dà, come dire, crea una fisicità a quelle che sono le nostre credenze. Quindi l'unico modo per uscire davvero, scomparire dalla manifestazione della dualità ed entrare nell'unità è quello di cambiare le nostre credenze, le nostre percezioni nel profondo. E io credo che a questo punto sia diventata urgente questa cosa, nel senso che vi sarete resi conto che comunque la situazione, politica è comunque sempre spaccata in due. Ci sono i nostri eroi che combattono e regolarmente le prendono. Ed è, come sto dicendo tanto in questi giorni, un giorno muovono i bianchi, un giorno muovono i neri. Siamo in stallo, perché nella dualità la dualità sta in piedi se le due forze si rispondono sempre ad armi pari. Se così non fosse, delle due parti della dualità collasserebbe, non ci sarebbe più dualità, si entrerebbe in una frequenza unitaria probabilmente diversa da quella che noi pensiamo. Quindi nella frequenza duale ci devono sempre essere due poli opposti. E per uscire da questo c'è un'unica strada, che è quella di lavorare sul non attaccamento, il non attaccamento a tutto ciò che crediamo reale, a tutte le illusioni, a tutti i giudizi, a tutte le credenze, perché tutto quello che ci hanno insegnato, tranne quello che è stato fatto qui nella scuola delle donne, è tutto falso, è tutto quanto pilotato dalla propaganda, dal progetto che avevano e che ci hanno inculcato fin da piccole, ci hanno insegnato ciò che dobbiamo vedere, ciò che dobbiamo credere, quindi ciò che dobbiamo creare col pensiero, perché crediamo che non ci sia altra via. Se vado troppo veloce, ditemelo, io vado bella spedita perché penso di avere a che fare con persone che capiscono ormai un po' che lavoriamo e quindi vado veloce perché ho tante cose da dire. Periodicamente si incarnano in manifestazione esseri illuminati che riportano il concetto dell'unità, il concetto dell'entrare nella frequenza unitaria e dell'uscire dalla dualità, lo riportano alla coscienza delle persone con le quali entrano in contatto, di chi riesce a seguirle. Poi scompaiono queste persone che o vengono dimenticate o vengono ammazzate dal sistema. Però periodicamente si ripropongono, si ripresentano e guardate, la dottrina è sempre la stessa. Io ho voluto parlare insieme di Mag Chig, che significa grande madre in questo antico tibetano, e di Margherita Porete, l'ho voluta riprendere, anche se ne avevamo accennato quando abbiamo tenuto la classe sulle beghine, ma ne abbiamo proprio accennato, in realtà abbiamo accennato soltanto alla sua vita, non abbiamo parlato del suo pensiero perché meritava una lezione da sola e era, essendo inserita in un discorso più ampio, ho dovuto per forza dare soltanto poche notizie, ma sempre ripromettendomi di riprenderla in mano. Ora mi sono resa conto di quanto collimano la pratica di Mag Chig, cioè il GCO Yul, questa pratica di uscita dalla dualità, e il Miroir, lo specchio delle anime semplici, che è l'opera di Margherita Porete, per la quale è stata mandata a rogo. Perché si assomigliano così tanto le opere di donne che hanno vissuto a secoli di distanza e nei due punti opposti del pianeta? Perché loro si sono semplicemente fatte portavoce di una disciplina che esiste da sempre, che è la disciplina e la visione e la filosofia che sta dietro alla frequenza unitaria, ed è probabilmente quella dei clan delle madri, perché questo tipo di disciplina ci porta a vivere veramente la pace interiore, quando noi siamo distaccate da ogni forma di giudizio e noi non abbiamo più nemici. Quando noi mettiamo a tacere tutte le nostre credenze, noi non abbiamo più nemici, quindi dobbiamo per forza vivere in pace. Non abbiamo più nulla, quindi non possono portarci via più nulla. Allora, Ma Chig fu una mistica e yogini tibetana. Sul canale della Scuola delle Donne trovate tutto quanto il suo testo, il GCO di Yul, cioè la pratica per uscire dalla dualità. È tosto, mi rendo conto, perché è scritto in un linguaggio arcaico, la pratica è molto dura anche per insegnanti di yoga già di ottimo livello e persone addestrate alla meditazione. E infatti io sul canale ne ho registrati dei pezzettini di massimo 5 minuti, proprio 2 o 3 capoversi ogni volta per poterci riflettere su. Era inutile che io mettessi tutto quanto insieme perché dopo, perfino io dopo qualche riga avevo bisogno di fermarmi e di fare entrare questo seme, di poterlo meditare. Quindi, se volete ascoltarvi tutta la sua opera, posto che non l'abbiate già fatto, potete trovarla sul canale. Magari potete sentirne un pezzettino alla settimana e lavorarci su, tenerlo come seme per la vostra meditazione quotidiana o comunque usarlo come strumento di meditazione. Nacque e visse in Tibet nella seconda metà dell'anno 1000, quindi dal 1050 in poi, non si sa esattamente quando. Pare che si sia sposata e abbia avuto diversi figli e figlie, ma la seconda metà della sua vita la trascorse in una grotta come asceta, come eremita, in ritiro spirituale, completamente sola. E lì fondò questo suo sistema spirituale che ancora oggi è riconosciuto e onorato da uno dei rami della filosofia tibetana. La filosofia tibetana ha tanti rami. Non ce n'è uno solo. Questa è una pratica che potrebbe essere assimilata a quella buddista, ma è ancora più estrema, è ancora più radicale, perché non c'è gerarchia, mentre nel buddismo c'è, perché ci sono quelli che stanno sopra e quelli che stanno sotto, ci sono i lama, ci sono i monaci e poi ci sono le monache che sono quelle che fanno le pulizie, cucinano e rifanno le stanze ai monaci, no? Quindi il buddismo è assolutamente una forma di spiritualità patriarcale che non ha niente di diverso dalle altre religioni patriarcali che noi conosciamo. La pratica di Ma Chig, invece, come quella di Margherita Porete, prevede di essere completamente soli nella pratica, di non avere maestri né maestre né nessuno a cui rendere conto, perché è una cosa che si fa con se stessi. Quindi l'unico maestro o maestra riconosciuta è la propria anima, la propria intuizione, la propria disciplina nel praticare. Ecco, lei fondò questa tradizione che è chiamata la recisione dei demoni. I demoni lei li chiama Bdub. Che cosa sono i demoni? Sono gli attaccamenti, sono tutto ciò a cui noi ci aggrappiamo, frutto praticamente del karma, frutto del ciclo delle reincarnazioni. Ogni volta che noi ci reincarniamo sappiamo che perché abbiamo lasciato qualcosa in sospeso della vita precedente, a meno che non ci incarniamo come maestre o come bodhisattva e quindi soltanto con lo scopo di aiutare gli altri, ma non credo che sia il caso di nessuna di noi. Mi sa che tutte noi abbiamo ancora un qualcosina, giusto un zichinin da sistemare. Per cui è Beh, io e Giorgia stiamo praticamente facendo servizio leggendo i libri. Credo che abbiamo registrato così tante ore in tutti questi anni che forse un po' di karma l'abbiamo bruciato così. Speriamo, perché è anche un modo piacevole. Beh, è vero. Quindi, che cosa succede? Succede che la ruota delle reincarnazioni crea degli attaccamenti, ossia fa sì che noi nella vita successiva abbiamo ancora dei legami con la vita precedente perché dobbiamo vederli e risolverli. Quindi la sua dottrina recisione dei demoni significa tagliare tutti gli attaccamenti che vengono dalla ruota delle reincarnazioni e quindi liberarsi completamente dal karma, ma non solo, uscire dalla dualità e uscire in maniera definitiva. Secondo lei il germe di ogni demone deve essere individuato nella propria mente, ossia è l'attitudine mentale che crea gli attaccamenti. Non ci possono essere attaccamenti che non provengano dall'attitudine mentale. Non si può mai dare la scusa a qualcosa di esterno dalla nostra mente. Siamo sempre noi le responsabili di tutto ciò a cui ci attacchiamo. Perché se ci attacchiamo vuol dire che vogliamo essere attaccati, altrimenti non lo faremmo. È una dottrina presieduta da una dea, quella di Macig, quindi ci invita a nozze perché noi con la dea ci sentiamo come topi nel formaggio. Ecco, secondo Macig, questa pratica di recisione dei demoni deve essere una pratica quotidiana, attraverso mantra, attraverso visioni, meditazioni e costante attenzione alle proprie azioni e ai propri pensieri. In questo non è molto diversa da qualunque cammino spirituale meditativo, ma udite, udite, lei dice che anche il cammino spirituale meditativo è un attaccamento, perché ci rende superbi, ci rende orgogliosi, ed è vero, eh? Io ho visto dei guru e delle guru. Pensare, mamma mia, Mara sta ridendo, l'ho solo vista che è lì che ridacchia. Mamma mia, che ego, aiuto. Perché anche quella è una forma di arroganza, di presunzione, avere, no, l'idea io ho un cammino spirituale. Secondo Macig, invece, è tutto molto più spontaneo, è tutto molto più semplice. Cioè, sì. Irradia come una fontana da noi, zampilla da noi, nel momento in cui noi lasciamo andare qualunque obiettivo, qualunque pregiudizio, qualunque giudizio e semplicemente lasciamo che la nostra natura emerga così com'è. Lasciamo uscire le nostre sensazioni naturali e smettiamo perfino di praticare. Capite che qui lei è veramente rivoluzionaria, perché lei ha scritto la pratica di recisione dei demoni, ma sostiene poi che perfino praticare è un attaccamento, che perfino avere degli obiettivi è un attaccamento. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna fluire, fluire nella natura divina a cui noi apparteniamo, smettere di pensare, perché la mente crea i demoni, la mente crea i bdud in base alle credenze che ci sono state date fin da quando eravamo piccole. La mente crea il giudizio e il giudizio è Bdud, il desiderio è Bdud, tutto quello che ci fa rivolgere a qualcosa di esterno, che siano cose fisiche, obiettivi mentali, spirituali, desideri, tutto quanto è demone, perché tutto quanto ci allontana da quello che noi siamo, in realtà siamo già natura divina. Quindi non dobbiamo fare nient'altro che liberarci a cipolla di tutto quello che non è nostro e fluire nella natura divina. Lei dice che l'autoliberazione avviene col manifestarsi spontaneo delle sensazioni, ma sono sensazioni innate, non sono sensazioni pilotate, per dire. Da piccola mi hanno insegnato che se metto la mano sulla candela mi scotto. Quindi il mio scottarmi non è una sensazione reale, è una sensazione che mi è stata insegnata. Ma quando io poi vado a camminare, e l'ho fatto, credetemi, dozzine di volte, sui carboni ardenti, su un tappeto di braci a 2000 gradi Fahrenheit e non mi scotto, mi rendo conto che allora non è vero che se io metto un pezzo del mio corpo sul calore mi brucio. È una credenza limitante che mi hanno passato, esattamente come quella del freddo. Ci hanno insegnato: se prendi freddo ti ammali. Sono entrata in laghetti ghiacciati con la neve all'esterno in inverno, ho portato gruppi di persone a fare immersioni nell'acqua gelata per tanto tempo e nessuno si è mai ammalato, sono sempre usciti tutti quanti rinvigoriti, perché anche quella sensazione del freddo e del caldo ci sono semplicemente state indotte con le credenze che i genitori o gli insegnanti ci hanno rifilato. Se voi guardate i bambini piccoli non hanno mai caldo, non hanno mai freddo, non hanno mai fame, cioè non hanno la stessa percezione che abbiamo noi delle sensazioni, perché ancora non sono stati indottrinati. Quindi Macig dice che le sensazioni sono qualcosa che sorge spontaneamente, semplicemente riconoscendo la nostra natura divina. Lei dice, questo è veramente straordinario. che eliminando il giudizio, male, quello lì è cattivo, quello lì è perverso, quello lì è mio amico, questo è attaccamento, attaccamento alle credenze. Mentre il comportamento supremo, secondo lei, è non avere un comportamento. Sembra una cosa assurda, però è la sua via ed è molto estrema, cioè lei sostiene che dobbiamo essere naturali e spontanee fino a fonderci col divino, fino a rientrare nella grande energia spiraliforme divina. Quindi, eliminando la radice del giudizio, eliminando il Vdud, si elimina l'aggressività, il desiderio, l'ignoranza, la gelosia, l'egotismo. Lei dice: non si ricerchi nulla, non si compia nulla. Si stia liberamente nello stato naturale, perché noi siamo già così, dobbiamo soltanto lasciare che questa cosa emerga. Si pratichi il non agire, dice. Qualche anno fa, non so se riuscite a, se siete riuscite, se sono riuscita io a spiegarmi e se siete riuscite a comprendere l'immensità di questa roba apparentemente così semplice. Cioè, lei dice: non fate niente, non pensate, non giudicate, non agite, non fate nulla, lasciate semplicemente emergere. Non è facile per noi che siamo abituate a cominciamo ad avere degli obiettivi già da quando alla mattina ci alziamo, adesso mi vado a fare il caffè, poi mi lavo la faccia, poi mi lavo i denti, poi vado a scuola, poi vado a fare la spesa. Poi, cioè, la nostra giornata è una sequela di obiettivi. Ma avere degli obiettivi è duale. Perché? Perché l'obiettivo è qualcosa che io ancora non ho, altrimenti non sarebbe un obiettivo, sarebbe la mia realtà di adesso. Se è un obiettivo vuol dire che è qualcosa ancora che non ho fatto, quindi sulla linea del tempo, qui nel punto A ci sono io prima di raggiungere il mio obiettivo e sul punto B dall'altra parte della linea ci sono io dopo che l'ho raggiunto. Che cos'è questa se non dualità? Invece non avere obiettivi, lasciarsi semplicemente fluire significa riunire questi due punti, perché non c'è più l'obiettivo. Non è facile concretamente capire come bisogna fare, eh? Io credo che cioè il segreto sia pensarci, pensarci e alla fine qualcosa succede, qualcosa scatta. Osservarsi, credo che l'autosservazione sia la base di tutto. Qualche anno fa, quando ancora tenevo conferenze, mi è stato chiesto come si fa a coniugare il libero arbitrio con il fluire, con il fluire nella volontà divina, cioè o scelgo o fluisco. Com'è possibile unire queste due cose? E lì al momento mi è venuta questa risposta, che però per me è stata fondamentale da allora in poi. E cioè che noi, il modo più sublime che abbiamo per esercitare il nostro libero arbitrio entrando nella frequenza unitaria è quella di scegliere di non scegliere più, scegliere con tutta me stessa di smettere di scegliere e quindi fluire di volta in volta con ciò che mi arriva, decidere di non decidere. Quindi io sto in realtà esercitando il mio libero arbitrio, la mia volontà, ma la sto girando nel campo delle infinite possibilità. Io, ragazze, provo a passarvela, è difficile, lo so che è una lezione difficile stasera, facciamo il meglio che possiamo, ci rimarrà la registrazione, poi potrete riascoltarla e comunque non è detto che la lezione di stasera debba per forza trasformarsi in una pratica. A me va bene anche soltanto parlarvi di queste due straordinarie donne perché le voglio poi, vorrei che le portassimo, che le convocassimo in Amor Villa. Sento che è importante che loro siano lì e che possano ispirarci dalla dimensione in cui si trovano ad entrare nella frequenza unitaria il prima possibile, quindi a liberarci da tutta questa enorme matrix nella quale stiamo vivendo, che è sempre più soffocante. Allora, 200 anni dopo Macigg, nasce Margherita Porete in Belgio, nelle Fiandre. L'unica notizia certa è la sua morte perché i dati del processo e la data del processo sono rimasti. Non è sicura la sua data di nascita. si sa che nasce più o meno nella metà del 1200, alla seconda metà del 1200 e che fu bruciata come eretica il 1 giugno 1310 nella Place de Grève a Parigi, che era dove bruciavano tutte quante le streghe. E probabilmente anche il nome non era suo, molte margherite o margarite erano delle donne di conoscenza, delle donne medicina, perché Marga ha la stessa radice di Maga, e quindi era uno pseudonimo spesso, perché spesso prendevano queste donne, e probabilmente anche Porete non era il suo vero cognome, ma veniva da povero, perché lei era una beghina, quindi in realtà non aveva possessi, possessi suoi, non possedeva nulla. Quindi decise di vivere in uno stato di povertà e probabilmente da questo prese il nome Porete, che fa più pensare al catalano o al cataro in realtà, più che al fiammingo come parola. Margherita ha una cultura teologica e filosofica enorme, ma è una fuoricasta, perché erano pochissime all'epoca le donne che potevano studiare e che potevano vantare una conoscenza di questo tipo. Tra le più recenti di cui abbiamo conoscenza c'è Elena Cornaro Piscopia, la veneziana madrina della nostra scuola, che nel 1600, una donna eruditissima, chiese di poter essere esaminata per una laurea in teologia, e le fu proibito perché le donne non potevano aspirare ad essere teologhe, quindi si dovette accontentare di una laurea in filosofia. Anche la nostra Margherita era filosofa, era teologa, era una donna di una cultura enorme, che scrisse in francese volgare, ossia nella sua lingua, così come Matilde di Magdeburgo scrisse in tedesco volgare, non in latino. Perché non riconoscevano loro il latino, come non riconoscendo nessun potere alla Chiesa Cattolica, non riconoscevano, e neanche alla Protestante, chiaramente non riconoscevano il latino come lingua per esprimere concetti teologici. Margherita Porete è l'autrice del più antico testo mistico della letteratura francese, che si chiama Lo specchio delle anime semplici. Era un'aristocratica, era colta, aveva tradotto le sacre scritture in volgare francese e era inoltre una beghina. Sappiamo che i beghinaggi erano delle sorte di case comuni nelle quali andavano a vivere le donne tutte insieme. Perdonatemi un attimo. Viveva nei beghinaggi, che erano queste grandi case dove le donne che non volevano sposarsi, che non volevano entrare in monastero e che volevano essere libere non solo dal vincolo di un marito o di un abate, ma anche libere di studiare e di pensare, potevano riunirsi e vivere tutte insieme lavorando. Quindi erano delle strutture veramente meravigliose, da cui viene la parola beghina, che però è stata ridicolizzata, questa parola è stata completamente alterata chiaramente dal patriarcato, perché erano donne che sicuramente il sistema patriarcale non apprezzava. Erano studiose, erano donne indipendenti che vivevano del loro lavoro e che si aiutavano a vicenda, quindi erano molto libere. Allora, che cos'è lo specchio delle anime semplici? Intanto le anime semplici sono proprio le beghine. Le beghine, le sue compagne di beguinage, e lei scrisse questo libro per aiutare quelle che lei chiamava le smarrite e gli smarriti, ossia donne, compagne di cammino, uomini anche, che avessero già fatto un grosso cammino verso la liberazione da ogni attaccamento, perché vedremo che anche Margherita Porete metterà al primo punto nella scaletta delle priorità quella di liberarsi da ogni attaccamento, ma che ancora non riuscivano a fare lo scatto finale. Quindi sono smarriti o smarrite perché sentono che c'è ancora qualcosa in più da fare oltre il livello dove sono arrivate, ma ancora non ci sono riuscite. Quindi questo testo è una sorta di aiuto che Margherita scrive per aiutare queste anime semplici che sono le sue compagne di beguinage. E sono, è questa sua, diciamo, pratica, questa sua disciplina è ispirata ai movimenti medievali del libero spirito. E ce n'erano parecchi nel Medioevo che delle filosofie al limite dell'eresia o cammini spirituali al limite dell'eresia che non riconoscevano la Chiesa cattolica o la Chiesa cattolica romana come Chiesa madre, ma esploravano vie alternative alle volte, mettendo in comune anche tutti i loro beni, un po' più vicini quasi alla via Essena, che non è qui ci ricongiungiamo con la classe di Giorgia dell'altra volta, no? Più vicini agli Esseni, al vivere in comunità che non al riconoscere una gerarchia ecclesiastica. Allora, che cos'è cosa sono le anime semplici? Semplici, questa parola semplici vuol dire sine plica, senza pieghe. Questo è importantissimo. Cosa vuol dire senza pieghe? Vuol dire fuori dalla dualità. Voi immaginate uno straccio. Un pezzo, una pezza, immaginate di pieghettarla e poi di distenderla, no? Se la pieghettate, la vedete tutta frammentata, se la stendete per bene, ossia togliete le pieghe, diventa sine plica, quella è un'unità, è un'unica pezza senza più disturbi, senza più frammentazioni, senza più linee di sfuggenza che disturbano la concentrazione, che disturbano il cammino e la meditazione. Quindi le anime semplici sono sine plica, senza pieghe, senza punti di oscurità, senza punti in cui la disciplina si è ingolfata, dove tutto fluisce. E torniamo al fluire di Macigg di prima. Lo specchio o speculum o miroir in francese, speculum in latino, che vuol dire specchio, miroir in francese, è un genere letterario, cioè è una sorta di disquisizione filosofica teologica in forma teatrale, dove ci sono dei personaggi, due o tre personaggi che discutono tra loro, per lo più donne, cioè per lo più entità femminili, che discutendo tra loro ad alta voce, come proprio se fossero sulle tavole di un palcoscenico, disquisiscono di filosofia e chiariscono dei concetti che altrimenti non sarebbero compresi. Protagoniste le tre entità, diciamo, le tre figure femminili protagoniste dello speculum, dello specchio delle anime semplici, sono amore, che però qui è femminile, l'amore, perché l'amore è l'intelligenza creativa, creatrice, e poi ci sono anima e ragione. Se voi ricordate, anche Christine de Pizan nella sua Città delle Dame aveva le tre dame con le quali lei parlava e che le insegnarono e le aiutarono a costruire la Città delle Dame. E anche nelle tavole di Hildegarda di Bingen, nelle sue visioni, lei ha lasciato sempre l'immagine di queste tre donne che stavano in equilibrio su un'enorme cisterna di acqua che rappresenta la conoscenza. Quindi c'è sempre la figura di queste tre donne o tre dame o tre entità femminine che disquisiscono tra loro e chiariscono i concetti. Questa amore femminina è il grembo della dea. È il grembo della dea in cui si incarna il verbo, si incarna il logos, ma è un'entità femminile, è un grande grembo, un grande utero che è protagonista di questo speculum. Quindi la frequenza unitaria, l'anima è illuminata, l'anima è perfetta, l'anima è risvegliata quando è sine plica, senza piega, ossia semplice. Che cos'è il male? È il due, la dualità, le pieghe, quello è il male, è dimenticarsi che tutto ciò che è un'unica unità senza pieghe. Quello è il supremo bene. Ovviamente per supremo bene non si intende il contrario del male, ma si intende la creazione, l'intelligenza creatrice, perché il male è un concetto duale. Nella frequenza unitaria non esiste il male, così come non esiste il bene contrapposto al male. Esiste un unico supremo bene inteso come fluire nell'intelligenza divina e nella creazione divina, ossia nella signora amore. Riesco a spiegarmi? La nostra grandissima Margherita Porete sostiene che bisogna perfino distaccarsi dal concetto di Dio, inteso come idolo, come un qualcuno esterno da noi a cui noi chiediamo le grazie, che noi preghiamo, cioè come qualcosa di separato da noi, che è esattamente quello che insegnano le religioni patriarcali. Lei dice che perfino il concetto di Dio è un attaccamento. Vedete come si assomigliano le due dottrine di Macigg e di Margherita Porete? Cioè, immaginate se potevano lasciarla sopravvivere una così. Macigg, essendo in Tibet, in un posto che sicuramente, dove sicuramente gli altri monaci comprendevano alla perfezione e potevano seguire quello che lei diceva, ha potuto vivere la sua vita e lasciare la sua traccia. Margherita Porete, no, chiaramente è stata perseguitata fin da subito, perché non solo non riconosceva la Chiesa, non riconosceva la gerarchia ecclesiastica, non riconosceva nemmeno Dio, inteso come un Dio padre, creatore staccato dalla sua creatura. Quindi lei dice che l'anima, quando l'anima è annichilata, lei usa la parola annichilata per intendere illuminata, risvegliata, cioè annichilata vuol proprio dire quando non ha più un obiettivo da perseguire, quando fluisce completamente, annullata nell'amore e nel pensiero divino. Quindi quello è il risveglio, quella è l'illuminazione. E dice lei, l'anima è annichilata quando sceglie di abbandonare la propria volontà. Capite? Sembra una roba in contrasto, ma un conto è abbandonare la volontà per rassegnazione o per incapacità o per mancanza di forza. Un conto è decidere di abbandonarla, decidere con tutta nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali. È diverso, è un atto di responsabilità quello di decidere: io voglio fluire con ciò che l'universo mi manda, qualsiasi cosa sia, senza giudicarlo. E ci vuole un grandissimo coraggio e una grandissima preparazione nell'affrontare questo, perché la maggior parte delle volte l'universo ci manda delle cose che non avevamo previsto e che non ci piacciono. Quindi è una grossissima palestra ogni giorno esercitarsi su questo, eh? Scegliere di abbandonare la propria volontà. Anche perché negli ultimi 10 anni tutti i corsi di self-help, di coaching, counseling, tutti quanti hanno insegnato che bisogna fissare degli obiettivi, che bisogna perseguirli, che bisogna tenere ben presenti, cioè apparentemente sembra il contrario di quello che sta dicendo. Io credo che sia una fase, una tappa. Cioè, imparare a fissare i propri obiettivi è servito inizialmente a tirarci fuori da quella sorta di melma nella quale il sistema vuole farci vivere, annebbiandoci, annichilandoci semplicemente con la propaganda, no? Con la Matrix. Quindi la prima tappa è quella di tirarsi fuori e dirsi: no, momento, io ho degli obiettivi diversi rispetto a quelli che il patriarcato, il sistema, la propaganda hanno per me e li voglio perseguire. Poi però, una volta capito come funziona il trucchetto, capito che sei tu che crei la tua realtà, il gioco è fatto, non hai più bisogno neanche di averlo l'obiettivo, perché sai che nel momento stesso in cui tu ti allinei alla volontà divina, tu diventi la dea, tu sei uno con la dea, non c'è più distinzione tra te e la dea, tu diventi la tua propria volontà. Tutto quanto viene riassorbito in un'unica enorme entità che è la signora Amore. Lei ha definito piccola la chiesa patriarcale. Immaginate quanto potevano volerle bene. E diceva che la chiesa istituita sulla terra dai patriarchi era una chiesa piccola e che l'unica vera chiesa, semplice e invisibile, senza dogmi, è quella della propria innata natura e del distacco da ogni attaccamento. Quindi lei si scaglia contro l'idea di un Dio padre creatore e padrone, perché la creazione viene da dentro, secondo lei. Secondo lei, secondo noi anche, credo che non possiamo che essere d'accordo. Ecco, qui c'è il punto maggiore di contatto con Macigg, io me lo sono segnato, perché lei dice che la creazione è un qualcosa di continuo, che non ha un perché. La creazione è continua, non si interrompe, perché se si interrompesse si entrerebbe nella dualità. Interrompere la creazione significa che c'è uno stacco, quindi che c'è una parte prima e una parte dopo. Siamo nel due. Riuscite a capire? Se invece la creazione è continua, ininterrotta, non c'è mai stacco, non c'è il due, c'è sempre solo l'unità. È quello che diceva Macigg. Quindi la creazione è qualcosa di continuo che non ha un perché, perché semplicemente la creazione crea se stessa, continuamente senza un motivo, emana se stessa. Non c'è un fine, non c'è un obiettivo, c'è soltanto un continuo autocrearsi, autogenerarsi, autorigenerarsi e zampillare. Immaginate una fontana che non si ferma mai e qua, è l'acqua che viene raccolta nella vasca e che ritorna in circolo. Che se ci pensate un po' anche l'immagine dei chakra quando sono aperti, no? Con l'energia che fluisce dentro fuori, senza mai fermarsi. Ecco, lei dice che l'autoliberazione o annichilamento avviene con il manifestarsi spontaneo delle sensazioni, senza attaccamento né giudizio. Quindi la mente spontanea, la creazione spontanea, il non giudicare, il non lasciarsi pilotare dalle credenze che ci hanno inculcato. Tutto avviene nell'istante, perché anche il tempo è duale, il tempo prevede che ci sia un prima e un dopo, quindi è duale, è solo l'istante, il qui e ora, l'eterno istante infinito che è unitario e la creazione avviene tutta nell'istante, nell'eterno istante. Lei dice... esattamente come aveva detto McGee, non si cerchi nulla, non si compia nulla, si stia nello stato naturale e si pratichi il non agire. Stiamo parlando di due donne che hanno creato la loro pratica a 2 secoli di distanza, ai 2 poli opposti del pianeta. Quindi ditemi voi se non c'è una visione di sottofondo che viene risvegliata di volta in volta. Da chi è in grado di sintonizzarsi con questa visione, di riportarla in manifestazione e di viverla, perché è la frequenza unitaria che c'è per tutti e che alcune di noi sono in grado di recuperare, sono in grado di collegarcisi e di portarla in manifestazione attraverso la parola, il pensiero e l'azione. Il libro fu bruciato una prima volta, la versione francese è stata persa, fu diffidata dal continuare a scrivere, ma lei ne fece delle altre copie e continuò a distribuirle finché non fu arrestata. Per un anno e mezzo i suoi aguzzini cercarono in tutti i modi possibili e immaginabili di trovare delle pecche, di trovare il modo di accusarla di eresia, ma non riuscirono a trovare una sola pecca. Nel suo specchio delle anime semplici, perché era metafisica e teologia perfetta, non c'era niente di eretico in quello che lei diceva. Però chiaramente non potevano non bruciarla perché lei non riconosceva l'autorità della Chiesa. Come donna violava il diktat paolino e poi aristotelico e paolino, cioè che le donne non potevano insegnare agli uomini. Ipazia fu assassinata per questo, perché era una donna che insegnava agli uomini. E Margherita ha fatto la stessa fine. In sostanza, non sono riusciti a trovare un solo argomento per poterla dichiarare eretica, quindi l'hanno bruciata semplicemente perché era una donna. Perché una donna si permise di scrivere di teologia, di pensare di teologia. Le ordinarono di ritrattare, ma lei si rifiutò perché non riconobbe pubblicamente l'autorità del tribunale ecclesiastico. Quindi non rispondeva neanche a questi signori che l'accusavano, perché diceva io sono la dea, io ho la dea dentro di me, o Dio, la dea, chiamiamola come vogliamo, quindi voi per me non siete nessuno, io non vi devo assolutamente dare nessuna spiegazione, non ritrattò e fu legata al palo, fu bruciata con l'ultima copia del suo libro in francese. Come facciamo noi ad avere ora da poter leggere e studiare lo specchio delle anime semplici? Perché gli atti del suo processo rimasero nella Biblioteca Vaticana e una studiosa, una medievalista che si chiama Romana Guarnieri, trovò nelle biblioteche vaticane la versione latina dello specchio che era sopravvissuta. E la mise a confronto con gli atti del processo e capì che quel testo era lo specchio delle anime semplici di Margherita Porete. Quindi lo tradusse e grazie a lei, grazie a questa Romana Guarnieri, a questa studiosa, noi oggi abbiamo lo specchio, lo speculum o il miroir da poter studiare. Chiaramente la versione latina è molto più povera rispetto alla versione in francese volgare, perché si perde la coloritura del linguaggio, si perdono tutti i modi di dire che in latino non potevano essere resi. Però, insomma, considerato quello che è successo a Margherita, è già un miracolo che noi possiamo ancora avere il suo testo. Ecco, un'ultima nota di colore. Meister Eckhart, che tutte quante voi avete sentito nominare, visse nello stesso periodo di Margherita Porete e si ispirò ai suoi insegnamenti, ma Meister Eckhart era un uomo, quindi nessuno lo condannava perché pensava, perché scriveva di teologia e di filosofia. Lui aveva il diritto di farlo in quanto uomo, Margherita no. Margherita fu mandata a rogo perché era una donna che pensava, perché era una donna libera, perché era una donna che si rifiutò di sottomettersi e di rinnegare il suo testo. Quindi il suo testo e la sua vita, perché ricordiamoci che era una beghina, quindi ci sono i beguinage dietro a questa sua opera, c'è tutta la forza delle donne, tutta la forza della sorellanza che sostengono e che l'hanno sostenuta mentre lei scriveva questa opera.